Io mi chiamo Cristina e lavoro qui da un anno e mezzo. Lavoro, sì, faccio la volontaria, perché questo praticamente è la nostra base del comitato Piazza Verdi. E niente, mi sono trovata praticamente qui qualche sera, che facevano appunto dei concerti così d'estate, e quindi ho iniziato a conoscere la zona. Quindi ho scoperto, tipo 3 anni fa, questa zona qui che è molto bella, però secondo me c'ha come si può dire, un alone intorno, per cui le altre persone che abitano a Bologna, i bolognesi, non vengono in Piazza Verdi. Molte persone tagliano proprio la zona, cioè, quindi c'è proprio una nomea un po' sbagliata anche probabilmente, perché più si fa così, no, più si parla male di questa zona, più le persone magari hanno paura di paura immaginaria, poi magari, perché poi in effetti non è che ci sia questa. E quindi mi trovo 3 anni fa a venire qui e scopro questa zona che è bellissima, praticamente piena di giovani, tante cose interessanti da scoprire, no? C'è un po' appunto una paura un po' soggettiva, non è oggettiva. Anche se ogni tanto succedono delle cose anche un po' strane. Cioè, io ho visto il sangue anche qui, in Piazza Verdi, ho visto delle situazioni particolari, però non so, forse è il mio carattere, ma cioè, io comunico con tutti quanti tranquillamente, quindi poi non vedo il male in nessuno. Poi magari se succede qualcosa sono cose loro interne, non so, appunto di questi, magari questi ragazzi qui, e quindi non. Io non ho paura assolutamente di. Invece noto che molte persone hanno paura di tante cose che sono soggettive, probabilmente. Tutti i giorni ci sono cose belle. Cioè, tipo, non so, anche i ragazzi che giocano a calcio, oppure fanno dei flash mob. L'altra volta sono venuti a ballare qui. Cioè, ogni giorno c'è qua. I bambini che vengono al teatro comunale, le flotte di bambini che sono carini. Cioè, ogni giorno c'è qualcosa di carino. Hanno fatto la manifestazione partita da qui, femminista. Buongiorno. Cioè, ogni giorno. Ciao, Telf. Presidente del comitato. Buongiorno. Prima era un luogo di forte integrazione tra residenti e studenti, no? Un luogo dove c'erano un sacco di attività artigiane, di attività commerciali, di vicinato, latterie, panetterie, venditori di frutta, insomma, poi c'era l'artigiano. C'era il fabbro, il falegname, cioè una zona proprio tipicamente bolognese, no? Con la composizione mista. E tutto ciò è scomparso e quindi c'è una prevalenza adesso di take away, bar, momenti diciamo di distribuzione delle bevande e di aziende legate poi agli studenti, quindi alle tesi di laurea e via dicendo. Prima era un luogo di incontro degli studenti, genericamente intesi, insomma, no? Piazza Verdi è il centro della cittadella universitaria, poi è diventato il centro dell'iniziativa politica, no? Non da 68 in parte, ma più da 77, no? Quindi dopo le vicende di Lorusso, eccetera. E poi è diventato progressivamente il luogo in cui tutti coloro che hanno interesse a trovarsi, a stare assieme, a trovare magari il fumo, a bere qualcosa, a incontrare persone, si ritrovano. E quindi qui si ritrovano immigrati, senza tetto, studenti, no? Ragazzi giovani che vengono dalle periferie e tutti assieme vanno a formare questa composizione straordinariamente, diciamo, differenziata, ricca se volete, ma difficile da digerire per la popolazione che invece rimane quella tradizionale, fatta di famiglie, di anziani, insomma.